Giovanni Zoppeddu, regista del documentario Diario di Tonnara, che sarà in tour al cinema a partire dal 6 aprile 2019. Giovanni, ben trovato. Salve a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Allora, questo lavoro è un lavoro che parte circa 3 anni fa, quasi per caso, mi trovai nel borgo di pescatori di Bonaggia e vidi questa struttura imponente in mezzo a case di umili pescatori. Mi chiesi cosa fosse. Trovai subito che era un edificio di Tonnara. Da lì iniziò una ricerca e mi imbattei sul libro di Mini Ravazza, che è un diario delle sue 20 stagioni da sub in Tonnara, e lì mi apparve davanti agli occhi un mondo incredibile, un mondo fatto di tradizioni, valori e persone che cercano di tramandare questa appunto tradizione da millenni ormai, sono portatori di una cultura antichissima. Stato nel tempo anche un vasto interesse da parte dei documentaristi su questa realtà storica italiana che ha interessato soprattutto le due isole, la Sicilia e la Sardegna. Sì, le Tonnare hanno sempre attratto molto registi, fotografi e scrittori. In particolare i grandi maestri del documentario si sono quasi tutti cimentati con la Tonnara, diciamo. Nel mio documentario io ho ripreso alcuni di loro per dare più forza al mio documentario. Mi sono confrontato, oltre che con la tradizione delle Tonnare, anche con la tradizione del documentario italiano, quindi con i padri del documentario italiano come Desseta, Quilici o Agliata. Com'è costruito il tuo lavoro? Allora, il mio lavoro è un documentario narrativo, ha una voce narrante che è lo stesso scrittore del libro, che racconta la sua esperienza. Attraverso un uso creativo del repertorio cerco di trasmettere delle sensazioni e di far rivivere nelle persone che guardano il film quei momenti che potevano essere tragici o felici all'interno di un'intera stagione di pesca. Delle pagine scritte, cosa ti ha impressionato? Come loro vivevano questo mondo, il loro sostentamento, il loro rapporto con la natura, il prevalere di una specie su un'altra, ma non per divertimento, per poter arrivare il giorno dopo, la necessità di poter continuare a pescare per poter continuare a far vivere un borgo. In più, appunto, il loro valore, il rispetto, la fatica appunto come valore che noi ormai cerchiamo di scacciare tendenzialmente. Per loro invece serviva a nobilitare le loro vite. Il tuo documentario, da quando è stato presentato, ha incontrato notevoli riscontri. È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma in selezione ufficiale, quindi già questo è un grande risultato per un documentario. Successivamente siamo stati al Festival Creusa de Mar a Cagliari, il Festival di Dio Franco Capito per la musica per il cinema, e ora sono a Catania per il Catania Film Fest, dove ho ricevuto anche un premio speciale dalla giuria. Che percorso farà a partire da sabato 6? Le prime due date sono il sabato 6 allo Spazio Do Oberdan a Milano alle 19. Successivamente l'8 aprile saremo a Roma al nuovo cinema Aquila alle 21. Dopodiché inizierà un tour siciliano dal 10 al 18 che toccherà le principali città dell'isola. A maggio avremo altre 3 date, Torino, Bologna e Firenze intorno al 10 maggio e successivamente un tour specifico per la Sardegna e anche lì toccheremo le principali città sarde. Che sensazione di fondo ti ha lasciato questo viaggio all'indietro nel tempo? Ma una sensazione bellissima di riscoperta di qualcosa che forse un po' ci manca. Io ho avuto la fortuna da giovane di vivere a contatto con i miei nonni e con un mondo che forse non c'è più. È un po' ritrovato quel mondo là. Ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più su questo tour cinematografico? Potete seguire la pagina Facebook Diario di Tonnara, troverete tutte le date, tutti gli eventi e il calendario completo del tour. E allora ricordiamo il documentario Diario di Tonnara in tour al cinema da sabato 6 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Zuppeddu. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie, grazie.